espansivo. Allora sogno una rivolta. Silente, in cui ciascuno mira al mio petto e dallo specchio la propria tempia. Saremo piloti, piloti di sebbia, piegati sul vento. Scriveremo sui mari col fuoco, scaglieremo lo scettro ed il trono. Senza lacrime, di sangue dipinte sul volto di marmo, nelle melodie.